Una decorosa repressione è un'iniziativa, è di 3 giorni, dal 23 al 25 febbraio, un'iniziativa costruita da diversi attivisti di diversa estrazione, alcuni fanno parte di collettivi, altri sono un po' tra i cosiddetti cani sciolte, come si dice in genere, e è un'iniziativa che si sviluppa in 3 luoghi differenti e sono venerdì 23 febbraio a XM24, sabato 24 febbraio al Circolo Costarena e domenica 25 alla Palestra Popolare Gino Milli. Si intitola Una decorosa repressione perché, diciamo, il dubbio che ci siamo posti è che una sorta di nuova ondata repressiva nei confronti dei movimenti, ma non solo, nei confronti di tanti aspetti della vita sociale e cittadina, venisse attuata tramite o con lo specchio della retorica del decoro. Insomma, non è semplicemente chiudere a delle modalità di vita, è utilizzare la retorica del decoro per imporre nuovi e diversi stili di vita e quindi imporre proprio un nuovo tipo di società, di metropoli, di modo di stare al mondo. Questo viene sviluppato in 3 giorni in cui vengono affrontati, il tema viene affrontato attraverso 3 lenti, quindi il giorno primo parleremo di socialità, di modi di stare nella città, il giorno è dedicato alle cosiddette forme di vita, il secondo giorno è dedicato proprio al decoro e quindi a come tramite una serie di ordinanze viene imposto poi un modo di vivere la città molto molto disciplinato, e il terzo giorno è dedicato alla tematica delle migrazioni. Immagino che, come dire, alcune parole chiave, visto il contesto socio-culturale e politico che stiamo vivendo, siano da un lato gentrificazione, dall'altro il decreto poi diventato legge Minniti Orlando. Assolutamente, anzi, diciamo, sono state tra due fenomeni, eventi che hanno poi dato il via alla nostra riflessione. Di gentrificazione parleremo specialmente nel secondo giorno, quello dedicato al decoro al Circolo Costarena, perché appunto abbiamo notato come le nostre città stiano effettivamente cambiando volto, che non vuol dire solo cambiare un modo di vita, una cultura di una città, vuol dire anche che i modi di vita che dobbiamo mettere in pratica sono prima di tutto dediti al consumo e poi estremamente costosi. Non è solo il fatto di mangiare in maniera buona, magari biologica, oppure bere in maniera più attenta, ma è farlo attraverso determinate etichette, spendere decisamente un livello di denaro che non tutti ci possiamo permettere. Questo è in sinergia con alcuni cambiamenti che sono avvenuti nella politica. Il decreto Minniti non è nulla nuovo, però impone una nuova accelerazione da diversi punti di vista. Prima di tutto una stretta molto repressiva sul governo della città. Dal punto di vista delle migrazioni questa cosa è molto evidente, lo diceva Minniti ad agosto 2017, il suo obiettivo era governare le migrazioni, quindi non del tutto reprimerle, ma dare loro una direzione molto specifica, renderle in qualche modo decorose. Banalmente, per esemplificare, il migrante per poter sperare di essere ammesso nella società italiana, quindi godere di una serie di tutele, deve essere un modello, essere bisognoso, deve provenire da determinati luoghi del mondo, appunto prostrarsi, a volte lavorare gratis, perché il decreto Minniti propone anche il lavoro volontario come forma di integrazione. Insomma, questo è il perfetto migrante decoroso. Come si vede, sono tutte tematiche che si possono collegare a diversi ambiti. Rispetto al Minniti c'è anche una piccola nota in più, che un conto è la legge, un conto è, diciamo, il clima generale che si ispira su Bologna. È clamorosamente evidente per questo elemento, nel senso che nel momento in cui sono stati dati dei DASPO urbani, nel momento in cui il DASPO è stato applicato a dei senza tetto, si è visto come la tematica fosse il decoro. Queste persone erano poco decorose, stavano in zone della città non adatte, ma poi si è attivato tutto un meccanismo di repressione. Recentemente Mero l'ha chiarito, che tutte le persone colpite dal DASPO sono migranti, quindi li verranno messi sugli aerei perché solo hanno peccato di degrado, insomma sono state poco decorose, e quindi, però essendo migranti, subiscono doppiamente l'effetto della repressione. Abbiamo quindi uno spazio cittadino completamente ripulito secondo criteri chiaramente decisi dall'alto, su un'azione estremamente violenta in nome del decoro. Certo, tu prima dicevi che il svolgere questa iniziativa in 3 luoghi diversi aveva un significato particolare. Sì, l'abbiamo fatto fatto, perché nostra intenzione, una delle nostre intenzioni non era solo analizzare la fase in cui ci troviamo, il momento in cui ci troviamo, ma anche creare connessioni fra persone diverse e quindi anche fra luoghi diversi, trattare determinati argomenti molto critici anche in luoghi dove generalmente non ce lo si aspetta. Molti di noi frequentano i centri sociali, siamo anche consapevoli che a volte rischiamo di essere, di chiuderci nelle nostre nicchie, per questo abbiamo deciso di dislocarci in giro per la città in maniera che fosse un discorso molto più collettivo che inserito in una nicchia. Questo si vede poi anche negli invitati che abbiamo chiamato: ci sono avvocati, ci sono medici, scrittori di libri, ci sono professori universitari, ci sono collettivi, ci saranno dei richiedenti asilo e ci saranno degli ultra, insomma ci saranno veramente tanti soggetti diversi che forse mai si trovano a essere seduti allo stesso tavolo. Invece volevamo ragionare in questa maniera un po' schizofrenica, ma speriamo che possa dare risultati molto alti.